Noi siamo stati molto critici con il calcio olandese ai mondiali dopo la finale per via di quell'atteggiamento violento e direi anche abbastanza antisportivo con cui la nazionale olandese si giocò una finale mondiale. Poi avevamo preso atto con stupore addirittura del grande fair play del CT olandese che ha escluso De Jong per un fallo gravissimo commesso in una partita del suo club in Inghilterra. Adesso arriva la notizia che l'Ajax ha fermato Suarez, attaccante uruguaiano ma la stella dell'Ajax di Amsterdam, per aver morso un avversario ad una spalla. Allora, al di là della singolarità e della follia dell'episodio, non vorrei che dall'Olanda ci arrivassero una serie di lezioni di etica. Ma questa è una lezione. Io adesso spero che non si arrivi ai morsi anche nel campionato italiano, perché sinceramente quando ieri ho preso la notizia, da un lato mi sono un po' messo a ridere, ma dall'altro mi sono un po' preoccupato, perché insomma stiamo veramente continuando ad alzare l'asticella. Detto questo, vorrei vedere quante società italiane, al posto di cercare mille cavilli, mille precedenti, certo, mille situazioni simili, oppure andare subito a dire sì, però quella volta a voi il rigore non l'hanno dato, piuttosto, certo, che sto facendo degli esempi abbastanza, sì, chiari. Il famoso benaltrismo, no? Ben altro hanno commesso i nostri danni, certo. Esatto, oppure insistere sulla correttezza di un giocatore, per carità, Eto è un giocatore riconosciuto anche per la sua correttezza, direi da oggi no, perché comunque una testata uno corretto non la dà, come si era detto di Krasic della Juventus, come è abbastanza normale che le società tentino di tirare l'acqua al loro mulino, ecco che dall'Olanda ci arriva questa lezione. Certo, avrei voluto, proprio lezione per lezione, che l'Ajax lo fermasse anche per la Champions, visto che lo fermi, fermalo per tutto. Comunque, insomma, anche qui siamo nel benaltrismo, perché noi guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto, invece è chiaramente mezzo pieno, perché è un gesto certamente nobile, certamente serio, ed è anche un segnale, secondo me, perché quando le società fanno capire ai propri giocatori che c'è un confine, c'è un limite, che il buon nome della società non può passare anche da queste loro bizze, secondo me siamo nel campo del vero fair play che ogni tanto bisognerebbe anche riscoprire.